Capitolo 103. Teseo nel Tartaro. Dopo la morte di Ippodamia, Pirito indusse Teseo, la cui moglie Fedra si era poco tempo prima impiccata, a recarsi con lui a Sparta per rapire Elena, sorella dei Dioscuri, Castore e Polideuce. Sia Pirito sia Teseo, infatti, ambivano unirsi a lei in matrimonio. Nel luogo dove sorge ora ad Atene il santuario di Serapide, essi giurarono di aiutarsi a vicenda in quella rischiosa impresa, di estrarre a sorte chi dovesse tenersi a Elena quando l'avessero rapita, e di rapire poi un'altra figlia di Zeus da assegnare al perdente. Ciò stabilito, guidarono un esercito a Sparta, si impadronirono di Elena, che stava offrendo un sacrificio nel tempio di Artemide eretta, e galopparono via con lei. Ben presto distanziarono gli inseguitori e a Tegea, come convenuto, tirarono Elena a sorte e vinse Teseo. Teseo temeva tuttavia che gli ateniesi lo disapprovassero per essersi inimicato in tal modo i terribili Dioscuri e perciò decise di mandare Elena, che non era ancora in età da marito, aveva infatti 12 anni appena, o come altri dicono anche meno, nel villaggio attico di Afidna, dove incaricò l'amico suo Afidno di custodirla con la massima cura e segretezza. Etra, madre di Teseo, accompagnò Elena e si occupò di lei. Taluni cercano di discolpare Teseo e dicono che Ida e Linceo rapirono Elena e l'affidarono poi a Teseo per vendicarsi del ratto delle Leucippidi compiuto dai Dioscuri. Altri sostengono che Tindaro stesso, padre di Elena, la affidò a Teseo sapendo che suo nipote Enareforo, figlio di Ippocoonte, meditava di rapirla. Trascorsero alcuni anni e quando Elena ebbe raggiunto l'età da marito, Pirito rammentò a Teseo il patto concluso tra loro. Assieme consultarono l'oracolo di Zeus, che avevano invocato a testimone del loro giuramento, e l'ironica risposta dell'oracolo fu: «Perché non scendete nel Tartaro per chiedere che Persefone, moglie di Ade, diventi la sposa di Pirito? Essa è la più nobile delle mie figlie». Teseo allibì quando Pirito, che aveva preso sul serio quel consiglio, gli chiese di tener fede al giuramento, ma non osò rifiutarsi di partire e insieme discesero con la spada sguainata nel Tartaro. Evitando il traghetto sull'Ete, preferirono passare dall'ingresso secondario, che si trova nella caverna di Tenaro in Laconia, e ben presto bussarono alle porte del palazzo di Ade. Ade ascoltò con calma la loro impudente richiesta e, simulando cordialità ospitale, li invitò a sedersi. Senza sospettare di nulla, essi presero posto sulla sedia dell'oblio. Questa sedia subito divenne carne della loro carne ed essi non avrebbero più potuto alzarsi senza subire una mutilazione. Furono attorniati da serpenti sibilanti, fustigati dalle moire e dilaniati dai denti di Cerbero, mentre Ade li osservava sogghignando. Per 4 anni Teseo e Pirito subirono quel tormento finché Eracle, che per ordine di Euristeo doveva catturare Cerbero, scese all'Ade e li riconobbe mentre gli tendevano le mani, invocando silenziosamente il suo aiuto. Persefone accolse Eracle come un fratello e gli concesse di liberare i due imprudenti e di ricondurli sulla terra, se gli fosse stato possibile. Eracle afferrò allora Teseo per le mani e cominciò a tirare finché, con uno strappo lacerante, Teseo fu liberato, ma buona parte della sua carne rimase attaccata al sedile. Ecco perché i discendenti ateniesi di Teseo hanno le natiche minuscole. Eracle afferrò poi anche le mani di Pirito, ma la terra tremò minacciosamente e l'eroe desistette. Dopotutto, Pirito era stato l'ispiratore di quella sacrilega impresa. Secondo altre versioni, tuttavia, Eracle liberò anche Pirito, mentre, secondo altri, non liberò nessuno dei due, ma lasciò Teseo incatenato per sempre a una sedia di fuoco e Pirito sdraiato accanto a Essione su un letto dorato. Dinanzi a loro appaiono in rapida successione tavole riccamente imbandite, ma subito le moire spazzano via tutti i cibi. Si dice inoltre che Teseo e Pirito non fecero mai incursione nel Tartaro, ma soltanto in una città tesprozia o molossia chiamata Cichiro, il cui re Aidoneo, accortosi che Pirito intendeva portargli via la moglie, lo gettò in pasto ai cani e rinchiuse in una torre Teseo, che fu poi liberato da Eracle. Gli eroi di parecchie mitologie discesero agli inferi: Teseo, Eracle, Dioniso e Orfeo in Grecia, Bel e Marduk in Babilonia, Enea in Italia, Cuculain in Irlanda, Artù, Gaudion e Amataon in Britannia, Ogel e Danois in Bretagna. Il mito pare ispirato dalla morte temporanea a cui il re sacro si sottoponeva mentre un fanciullo interrex prendeva il suo posto per un solo giorno. Si eludeva così la legge che proibiva al re di regnare per più dei 13 mesi dell'anno solare. Bel e il suo successore Marduk trascorsero il periodo della loro morte temporanea lottando contro il mostro marino Tiamat, un'epifania della dea del mare Ishtar che scatenò il diluvio. Essi venivano forse annegati come gli antichi re irlandesi che si narra lottassero contro le gigantesche onde dell'Atlantico. Su un vaso etrusco si vede il re moribondo chiamato Giasone nelle fauci di un mostro marino. Da una scena del genere fu evidentemente tratto l'aneddoto morale di Giona e della balena, poiché Giona si identifica con Marduk. I mitografi ateniesi riuscirono a mascherare l'aspra rivalità sorta tra Teseo e Pirito, che fungeva da gemello, per guadagnarsi i favori della dea della morte nella vita, che nel mito appare sia come Elena sia come Persefone, presentandoli come una coppia di re amici. Costoro, a somiglianza di Castore e Polideuce, fecero un'incursione con scopi amorosi in una città vicina e uno dei due poté sfuggire alla morte accampando un'ascendenza divina. Ida e Linceo, un'analoga coppia di gemelli, furono introdotti nella leggenda per rendere più evidente questo particolare, ma il nome di Pirito, colui che si rigira, ci fa supporre che egli fosse di diritto un sacro re, e in una pittura vascolare dell'Italia meridionale lo si vede ascendere al cielo, mentre Teseo rimane seduto accanto alla dea della giustizia come se fosse soltanto il suo successore. Il ratto di Elena, avvenuto durante un sacrificio, ricorda il ratto di Orizia compiuto da Borea, e fu forse dedotto dalla medesima scena che raffigurava le orge erotiche delle tesmoforie ateniesi. È possibile naturalmente che il santuario della dea attica Elena ad Afidna contenesse un simulacro o un altro oggetto del culto rubato dagli ateniesi al doppione spartano della dea stessa. Se la visita al Tartaro è una replica di questa storia, può darsi che essi avessero fatto un'incursione a Tenaro e che tale simulacro fosse poi recuperato dagli spartani. I 4 anni del soggiorno di Teseo al Tartaro corrispondono al periodo concesso al re sacro prima che egli cedesse il trono al successore. Veniva poi incoronato un nuovo re, Teseo, re di Vivus. Gli ateniesi fecero un tentativo per elevare il loro eroe nazionale agli onori di divinità olimpica, affermando che egli era sfuggito alla morte, ma i loro nemici, i peloponnesiaci, si opposero con successo a tale pretesa. Taluni anzi sostennero che Teseo non sfuggì mai al Tartaro, ma fu punito in eterno per la sua insolenza come Issione o Sisifo. Altri diedero una spiegazione razionale alla storia, dicendo che Teseo fece un'incursione a Cichiro e non nel Tartaro, e si diedero la pena di spiegare che Pirito non era stato morsicato da Cerbero, ma dai Molossi, la razza di cani più feroci e robusti dell'intera Grecia. La concessione più generosa fatta alla tesi degli ateniesi fu che Teseo, rilasciato sotto condizione dopo il suo umiliante periodo di attesa sulla sedia dell'oblio, dimostrò la sua riconoscenza dedicando molti dei propri templi e santuari a Eracle Salvatore, di cui aveva scimmiottato le gesta. Tuttavia fu un eroe di una certa importanza e gli si può concedere il merito di essere disceso agli inferi, nel senso che giunse fino al centro del labirinto cretese dove lo attendeva la morte e ne uscì sano e salvo. Se gli ateniesi fossero stati forti in terra come lo erano sul mare, indubbiamente egli sarebbe divenuto un Olimpio o almeno un semidio nazionale. Il centro più ostile a Teseo fu senz'altro Delfi, il cui oracolo apollineo appoggiava notoriamente gli spartani nella lotta contro Atene.